le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Accenni di crescita, ma i germogli vanno protetti, dice il presidente di Confindustria Squinzi nel giorno dell'assemblea che si svolge ad Expo. C'è una manina antimpresa, aggiunge, qualcuno ci vede nemico. Auto pirata sui passanti, arrestata per omicidio volontario una 17enne rom nella capitale, investite 9 persone, si alza lo scontro sui campi nomadi. E a Roma è polemica sul nubifragio e gli allagamenti di ieri, tombini da ripulire e rischi a pochi mesi dal via al Giubileo. Putin interviene sugli arresti nella FIFA, colpiscono Blatter perché non vogliono i mondiali in Russia. La federazione intanto si prepara alla rielezione dei vertici. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e durante la diretta il numero di sms, il 349-238-6666. In apertura l'assemblea di Confindustria che oggi si svolge ad Expo. Sentiamo le nostre due inviate, iniziamo dalla relazione del presidente Giorgio Squinzi. Valeria De Rosa, buongiorno. Buongiorno a te Simone e ai nostri ascoltatori, una relazione molto ampia quella del Presidente, molto incentrata sulla comunità imprenditoriale perché, come sentivate anche nei titoli, i segnali di ripresa ci sono ma vanno difesi e posto in questa relazione un posto molto importante per l'Europa. Da sempre un pallino per Squinzi, a cui Squinzi rinfaccia la lentezza, le divisioni e l'eccessivo rigorismo, sentiamolo. Perciò non c'è alternativa, occorre un colpo d'ala. La politica deve riacquistare il ruolo e la dignità che le diedero i padri fondatori. Senza progetto politico e una visione comune, l'Europa stenterà ad essere un interprete autorevole della scelta geopolitica, della scena geopolitica mondiale e non riuscirà a rispondere ai bisogni complessi dei cittadini e delle imprese del continente. A questo proposito il Presidente ha ricordato anche la crisi greca affermando che se fosse stata affrontata all'inizio sarebbe già stata risolta, non mettendo a repentaglio le basi dell'Unione che in questo momento è pervasa dallo scetticismo. Poi due temi che ricorrono ultimamente molto spesso nel discorso del Presidente e a questo proposito ovviamente il ritorno all'industria come motore di un'economia sana e sostenibile, grazie anche a condizioni che in questo momento sono particolarmente favorevoli come il prezzo del petrolio e il quantitative easing e poi il lavoro stretto delle imprese che devono innovare e investire, un riconoscimento al governo per il Jobs Act e gli interventi in materia fiscale, ma la sfida è sulla contrattazione, soprattutto quella di secondo livello, da cui l'appello ai sindacati per mettere in campo relazioni più moderne per recuperare la competitività. Oggi non ho niente da chiedere all'esecutivo, ha detto Squinzi, che però poi non ha risparmiato una stoccata anche al governo di Matteo Renzi. Sentiamolo. Le migliaia di norme che si sono stratificate negli anni per rendere dura la vita dell'imprenditore, dobbiamo ammettere che hanno avuto un certo successo. Anche con questo governo, che pare più attento, la manina antimpresa ogni tanto si esercita nelle piaghe dei provvedimenti assunti nei diversi livelli istituzionali. E grazie a Valeria De Rosa, andiamo dunque alla nostra altra inviata, Livia Zancaner, per le reazioni, per gli altri interventi, compreso quello del governo rappresentato da Federica Guidi, ministro dello sviluppo economico. Livia, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora, la relazione, l'assemblea è finita da poco, i ministri stanno iniziando a uscire. Allora, poco fa è uscito il ministro Martina, sentivamo prima che Squinzi ha parlato di una manina antimpresa del governo e ha parlato anche di troppe norme a partire da quella del falso in bilancio. Allora, il ministro dell'agricoltura Martina ha detto che sul falso in bilancio comunque va bene così e ha detto che per quanto riguarda il plauso del Jobs Act da parte di Confindustria, la priorità per ora, per il momento, è rilanciare gli investimenti. Allora, sul falso in bilancio ha parlato anche l'ex presidente del Senato Schifani, che è uscito proprio poco fa, ha detto stiamo pensando a una rivisitazione del falso in bilancio che in effetti, come ha fatto notare il numero uno di Confindustria, può penalizzare le piccole e medie imprese, quindi da questa parte c'è un'apertura. Ricordiamo, oggi erano più o meno 2000 gli invitati, i delegati delle imprese, anche anche i sindacati, quindi Camusso, Furlan per la CISL, Barbagallo per la UIL, presente anche i numeri uno delle istituzioni come Bassanini della CDP e Vegas della Consob, ha parlato all'interno quindi dell'assemblea, durante l'assemblea il ministro Guidi, ha parlato dopo Squinzi, ha detto ormai siamo usciti dalla crisi, abbiamo iniziato a risalire la china, il governo ha fatto tutto quello che poteva fare, che era in suo potere. Sentiamo. Io stessa, insomma, appunto, ho frequentato queste stanze, ricordo di aver sentito alcuni esponenti di governo, alcuni ministri promettere molte cose e poi magari ritornare un po' a mani vuote o con meno cose di quelle che avevano promesse. Beh, io forse non so, non vorrei sembrare presuntuosa, però credo che questa volta il governo vi ha dato molte delle risposte che voi aspettavate. Sì, scusate il rumore sottofondo, è grande assente, lo abbiamo detto stamattina, il premier Matteo Renzi che è con Marchionne a Melfi, sono arrivate proprio le dichiarazioni di Marchionne che ha detto apprezzo Squinzi ma Confindustria non mi manca, ricordiamo che la Fiat è infatti uscita dall'associazione degli industriali e per ora è tutto, a te Simone. E grazie a Livia Zancaner, cambiamo decisamente argomento e andiamo alla cronaca che ci parla soprattutto dei fatti di Roma dove un'auto è investita. 9 persone, uccidendone una. Le forze dell'ordine stanno passando al setaccio i campi Rom alla ricerca dei due uomini che erano a bordo dell'auto che ieri sera ha travolto alcune persone alla periferia di Roma, riusciti poi a scappare. Sono state anche rafforzate a Prima Valle le misure di vigilanza e questo per le tante minacce di stampo razzista comparse dopo l'incidente anche sui social. Con ogni probabilità non era lei a guidare l'auto, ma arrestata dovrà comunque rispondere dell'accusa di omicidio volontario, la 17enne Rom, unica a non riuscire a scappare ieri. 3 infatti le persone a bordo della vettura che andava molto veloce e non si è fermata all'alt della polizia, uccidendo una donna filippina di 44 anni, madre di 2 figli, e ferendo altre 8 persone, 4 in gravi condizioni. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E nel quartiere dove sono avvenuti i fatti, in particolare credo in via Mattia Battistini, si trova il nostro Andrea Viali. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è così, il quartiere è quello di Prima Valle, io sono in via Mattia Battistini dove appunto i due Rom ieri sera hanno travolto e ucciso questa donna filippina che stava aspettando un autobus alla fermata e con lei hanno falciato anche altre 2 persone che per fortuna sono riuscite a sopravvivere anche se sono in questo momento ricoverate e ho parlato con alcune persone che hanno assistito a questa scena e mi hanno raccontato che insomma quest'auto andava veramente molto forte, tra l'altro questa è una zona molto trafficata e era inseguita dalla polizia e dopo aver investito queste persone ha comunque proseguito la sua corsa, la sua fuga che si è conclusa soltanto dopo qualche chilometro e qui naturalmente da questa mattina c'è un via vai di abitanti della zona che sono ancora sgomenti per quanto accaduto ieri sera. Molte delle persone con cui ho parlato, la maggior parte delle persone con cui ho parlato non hanno nascosto anche la loro rabbia nei confronti della comunità Rom, è un sentimento che sta anche preoccupando le forze dell'ordine, tant'è che la polizia per precauzione ha rafforzato la vigilanza attorno ai campi nomadi di questa zona di Roma perché sui social network sono già apparsi diversi messaggi di minaccia e naturalmente il timore è quello di ritorsioni. C'è da dire però che ci sono da parte del quartiere anche risposte, diciamo reazioni più composte, infatti per questa sera è stata organizzata una fiaccolata sia per ricordare questa donna uccisa sia naturalmente anche per chiedere più sicurezza per questo quartiere, un quartiere che come tutti i quartieri periferici di Roma ha diversi problemi, Simone. E grazie Andrea Viali per questo racconto e questi aggiornamenti, tutte questioni che entrano anche queste in campagna elettorale. Questa mattina Matteo Salvini è tornato a parlare di ruspa per i campi nomadi, mentre il ministro dell'interno Angelino Alfano dice che è in costante contatto con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dice li prenderemo, pagheranno caro fino in fondo. Questo è altro appunto nella campagna elettorale. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, appunto, allora intanto proseguo sempre sull'incidente dei Boccea e sui riflessi che ha nella politica. Fratelli d'Italia si scaglia per il silenzio del sindaco di Roma Ignazio Marino, Sell invece si oppone a qualsiasi forma di rancore e razzismo. Veniamo invece alle altre forze politiche e agli altri temi. Parte l'attacco di Silvio Berlusconi a pochi giorni dalle elezioni: votare a sinistra e buttare via un voto, se tutti i moderati andassero a votare vinceremmo 7-0, dice l'ex cavaliere. E a proposito della futura leadership del centrodestra, si dice pronto anche a fare un passo indietro, ma non è convinto che i leader attuali possano ricomporre il centrodestra. Matteo Renzi invece si reca alla Fiat di Melfi, riceve il beneplacito dell'amministratore delegato Sergio Marchionne, che giudica giuste le riforme del premier, mentre Renzi continua a rilanciare il Jobs Act e attacca gli altri leader politici: il lavoro non si crea andando il martedì ai talk show. E da parte del Movimento 5 Stelle continua invece la battaglia sull'omertà intollerabile, così viene giudicata dai 5 Stelle la mancata rivelazione dei nomi degli impresentabili da parte della Commissione Antimafia. Matteo Salvini della Lega dice invece che le liste del Carroccio sono pulite, il problema è per il PD e per Forza Italia. In campagna il candidato PD Vincenzo De Luca è convinto che se verrà eletto la volontà popolare prevarrà sulla legge Severino, per il quale, ricordiamo, rischia la sospensione. A te, Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Veniamo alla notizia con la quale abbiamo aperto la trasmissione di Effetto Giorno di ieri, ossia la bufera giudiziaria che ieri ha investito la FIFA. Le riunioni proseguono nell'organo di governo del calcio mondiale, alcune federazioni intendono comunque votare per i nuovi vertici e rieleggere Blatter. Nel frattempo interviene addirittura il presidente russo Vladimir Putin, che dice: l'indagine americana è un chiaro tentativo di evitare la rielezione di Blatter. Insomma, teme Putin che si vogliono boicottare i mondiali russi del 2018. Dario Ricci, il punto, buongiorno. Beh, Simone, diciamo che tra Zar se la intendono, diciamo, Blatter e Putin. È chiaro che dopo il terremoto stiamo assistendo alla deriva dei continenti del calcio mondiale. Da una parte c'è l'Europa, la tradizione, la storia del gioco insieme al Sud America, dall'altra ci sono i soldi, i capitali, i mercati ancora inesplorati e che fanno gol a tanti, ed è l'Asia. Questa duplice natura del calcio che in qualche modo Blatter ha alimentato nel suo governo, e staremo a vedere se poi si andrà al voto, se verrà prolungato, porta però anche questi due continenti a cozzare. Quindi quali sono gli schieramenti in campo adesso, Dario? Beh, diciamo, semplificando grossolanamente, le grandi europee ne hanno abbastanza della gestione Blatter, soprattutto gli inglesi, gli inventori del gioco, che si sono visti soffiare dalla Russia proprio il mondiale 2018, che già sentivano in tasca. L'altro grande sgarro che ha fatto Blatter è stata l'assegnazione del mondiale 2022 al Qatar, il che ha fatto esplodere già i calendari internazionali, visto che molto probabilmente si giocherà addirittura in inverno. Insomma, non so se le semifinali saranno a Natale o giù di lì, insomma, perché d'estate non si sarebbe potuto mai giocare in un paese così caldo. Questi due, e dall'altra parte invece c'è l'Asia, c'è Giappone, Corea del Sud, che già da Blatter ha avuto parecchio in cambio rispetto agli investimenti, e faccio riferimento esplicito al mondiale 2002, e la Russia, che guarda chiaramente a quella parte. Insomma, c'è una vera e propria Pangea. Staremo a vedere, perché questi continenti, prima eventualmente di allontanarsi, continueranno a cozzare tra di loro. Vedremo dunque che cosa succederà nelle prossime ore. Massima attenzione su quello che succede a Zurigo. Io intanto saluto e ringrazio il nostro Dario Ricci. Mentre noi ci spostiamo a parlare di Grecia, la Banca Centrale Europea torna a spingere per un accordo rapido, mentre Varoufakis mette le carte in tavola. Sentiamo. Nessun risultato sostanziale. Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, gela l'ottimismo del premier greco Tsipras, convinto che l'accordo con i creditori sul percorso di risanamento del debito sia ad un passo. Le cose si sono mosse, ma c'è ancora molto lavoro da fare, dice a margine del G7 di Dresda, dopo che a frenare gli entusiasmi erano stati già il vicepresidente della Commissione Dobrovsky e il ministro delle Finanze tedesco Schäuble. Intanto a lanciare l'allarme la BCE: in assenza di un accordo rapido, potrebbe potrebbero esserci rischi di contagio dei paesi dell'eurozona più vulnerabili, mentre da Atene arrivano oggi segnali contrastanti. Il ministro delle finanze Varoufakis in Parlamento chiede senza mezzi termini la ristrutturazione del debito, il che farebbe pensare a un possibile rallentamento della trattativa. Poi però il portavoce del governo ribadisce che l'intesa è vicina, Atene la vuole entro domenica e sta facendo il suo meglio per evitare il default, uno scenario questo che anche i creditori vogliono evitare. In questo quadro si inserisce il Wall Street Journal, che in un lungo editoriale consiglia ai leader europei a dare un ultimatum definitivo alla Grecia, una mossa ad alto rischio, ma lo è anche vagare come sonnambuli verso un incidente. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di economia e di debito pubblico, il Tesoro italiano ha collocato BTP a 5-10 anni con tassi in rialzo rispettivamente allo 0,85% dallo 0,63% per i quinquennali e a 1,83% da 1,40% per i decennali, questo nell'asta di questa mattina. Ci occupiamo di una sentenza della Cassazione che farà discutere. Si assentava spesso dalla sua postazione per telefonare o chattare su social network. Così l'azienda, per inchiodarlo, lo ha adescato con un falso profilo Facebook. È successo a un operaio abruzzese che è stato licenziato per giusta causa dalla stamperia dove lavorava. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dando ragione al datore di lavoro. Le aziende infatti non possono controllare accessi internet né email private dei dipendenti, ma alla luce di sospetti fondati possono fare i cosiddetti controlli difensivi, come spiega l'avvocato per i diritti del lavoro Giuseppe Bologna. Ci sono stati comportamenti del dipendente visibili a tutti che avevano destato dei sospetti, si è quindi allontanato dalla linea produttiva per un certo periodo di tempo, era stato visto, immagino, da qualche colleghi mentre stava chattando invece di essere sul lavoro. La novità della sentenza è che l'azienda non ha effettuato un semplice controllo da remoto per accertare i sospetti, ma ha messo in piedi una sorta di inganno creando l'identità falsa sul social network. I lavoratori sempre connessi sono avvisati. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra poco torneremo sulla vicenda dell'auto pirata sui passanti, della vittima a Roma, delle polemiche e dello scontro che si sta alzando sui campi rom. Ne parleremo tra l'altro col presidente del 14° municipio e resteremo a Roma per parlare di tombini, questi tombini che ieri non hanno funzionato a dovere e hanno consentito di fatto l'allagamento di un intero pezzo della città. Non una novità, ma siamo a pochi mesi dal giubileo. Tutto questo dopo il traffico. Smau ti aspetta a Bologna. 4-5 giugno, Bologna Fiere. Smau.it vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Accenni di crescita, ma i germogli vanno protetti, dice il presidente di Confindustria Squinzi nel giorno dell'assemblea. C'è una manina antimpresa, qualcuno ci vede nemico. Auto pirata sui passanti, arrestata per omicidio volontario una 17enne rom nella capitale, investite 9 persone, si alza lo scontro sui campi nomadi, 2 persone ricercate. A Roma è polemica sul nubifragio e gli allagamenti di ieri, tombini da ripulire e rischi a pochi mesi dal via al giubileo. Putin interviene sugli arresti della FIFA, colpiscono Blatter perché non vogliono i mondiali in Russia. La federazione intanto si prepara alla rielezione dei vertici. E torniamo adesso dunque sull'incidente che c'è stato ieri, un'auto inseguita appunto che aveva a bordo ed era guidata da 3 persone rom, di cui una ragazzina di 17 anni è stata arrestata, ha investito 9 persone, ne ha uccisa una. Ci ricorda anche giustamente un ascoltatore o un'ascoltatrice via SMS al 349-238-6666 di ricordare anche tutti i pirati della strada italianissimi, ma lo abbiamo benissimo presente, a partire, ci ricorda, quello di Palermo che senza patente la settimana scorsa ha ucciso una donna. Però vogliamo parlare del caso specifico e capire anche che clima si respira nel quartiere dove tutto questo è avvenuto. Siamo nella zona nord di Roma e saluto Valerio Barletta, che è presidente del 14° municipio del Partito Democratico. Barletta, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Appunto, lo chiedo a lei, che clima si respira? Ma ovviamente c'è tensione e adesso tutti quanti auspichiamo che le forze di polizia possano attuffare letteralmente gli altri responsabili di questa tragedia. Poteva essere un'ecatombe perché quotidianamente su via Mattia Battistini all'altezza della metropolitana attraversano centinaia, migliaia di persone. E questo è il quadro. C'è un, glielo chiedo perché ormai lo stanno tirando fuori tutti, no? C'è un problema rom nella zona oppure no? Ma guardate, a me francamente non interessa l'etnia di queste persone, non sono rom, sono assassini e come tali vanno trattati e come tale questo fatto va letto. Dobbiamo fare questo con lucidità e attenzione, altrimenti ci prestiamo al gioco dello sciacallaggio facile. E questo gioco allora, non voglio fare. Questo ragionamento lo capisco, Barletta, però dall'altra parte, dato che su internet iniziano a girare già convocazioni di sit-in con delle frasi che dicono di fiaccolate, con delle frasi che dicono le fiaccolate non servono a niente, dobbiamo marciare sui campi rom, eccetera, eccetera, vorrei capire da lei se intravede rischi che nelle prossime ore si scateni qualche episodio di violenza. Ma io condanno fermamente queste azioni che davvero servono solo a strumentalizzare una tragedia vera. Una donna è morta, una donna filippina, oltretutto altre persone sono oggi nei pronto soccorsi di diversi ospedali della nostra zona. Io ieri ho visitato le due vittime all'ospedale Gemelli, un'altra signora filippina, una turista francese, due ragazze italiane. Questo è di quello che è successo in un quartiere che già oggi accoglie diverse persone di nazionalità di tutto il mondo. Questo fatto non deve essere letto come qualcosa legato alle etnie o alle provenienze, ma come una tragedia, un fatto gravissimo che va condannato in tutta la sua efferatezza, ma senza scendere in basso nelle strumentalizzazioni e nello sciacallaggio. Senta Barletta, quali sono le condizioni dei feriti? Lei lo sa? Ma seguo quotidianamente, ogni ora, il bollettino medico, in particolare di quello che è il dato delle due persone ricoverate al pronto soccorso del Gemelli, una ragazza italiana di 19 anni, ancora in prognosi riservata, ma sembrerebbe fuori pericolo di vita. C'è un'altra signora in età più grande, di nazionalità filippina, che invece ha avuto danni un pochino più seri, direi, e nelle prossime ore spero possa essere sciolta la prognosi. Saranno decisive. Grazie a Valerio Barletta, presidente del 14° municipio, ma noi restiamo a Roma perché ieri c'è stato anche un nubifragio che ha scatenato polemiche, perché ci sono stati molti allagamenti, addirittura una trentina di bambini sono rimasti bloccati all'interno della scuola e sono andati, diciamo così, a salvarli o comunque a recuperarli i pompieri, automobilisti con l'acqua fino all'altezza del portiere delle macchine. Si ragiona un po' sul fatto che, signori, mancano 6 mesi al giubileo e insomma la città qualche rischio lo corre. Partiamo col servizio. Poche ore di pioggia bastano per mandare nel caos la capitale a 6 mesi dall'apertura del giubileo indetto da Papa Francesco. Solo ieri l'ultima di tante giornate di strade allagate e traffico impazzito in una parte della città. Disagi che neanche i massicci investimenti per la ripulitura degli oltre 500.000 tombini hanno mai risolto. In vista del giubileo prepara un piano straordinario l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Roma, Maurizio Pucci. Pensiamo dal mese di luglio, perché queste cose si fanno nei mesi estivi quando non piove, di mettere in campo un piano straordinario che ci permetta di arrivare alla data dell'inizio del giubileo avendo pulito almeno la metà dei tombini della città. Non partirà invece la sperimentazione dei tombini intelligenti annunciata pochi mesi fa dal comune, una rete di sensori che avrebbero dovuto mettere in connessione le caditoie con una centrale operativa. È inutile andare avanti su una strada rispetto alla quale non ci sono risorse sufficienti perché l'operazione abbia una sua vasta efficacia. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sentito nel servizio di Nazareno Orlandi l'opinione dell'assessore, vogliamo sentire anche un consigliere d'opposizione, Alfio Marchini, consigliere comunale a Roma, come sapete, ex candidato sindaco, e chissà se lo risarà. Questo non l'ho capito, Marchini, vuole ricandidarsi lei? Diciamo che gli amori veri non si abbandonano mai, Io amo Roma e rimango innamorato di Roma e mi piange il cuore vedere lo stato di degrado e di abbandono in cui questa città versa, dall'immondizia in mezzo alla strada, a due gocce d'acqua ci riempie. Veramente, insomma, vedo che c'è un trend di decadenza crescente e dopo 2 anni non solo non si è invertita, ma si è accelerato un fenomeno che assolutamente fa stringere il cuore a tutti quelli che amano Roma, romani e non solo. Io ogni volta giro per l'Italia non solo, insomma, accolgo un coro di gente disperata e dice: ma come è possibile che Roma sta in questo stato? Devo dire che ascoltavo il mio assessore Pucci, che tra l'altro Rino ogni volta ne cambia uno di assessore, viene, fa lo stesso proclama e poi dopo non cambia assolutamente nulla. Vorrei semplicemente ricordare che era l'agosto del 2013, e l'ottimo Marino disse: avvieremo una pulizia vera e capillare dei tombini della città, perché non si può mettere in ginocchio un acquazzone a Roma. Sono passati 2 anni, spesi circa 5 milioni di euro per teoricamente mettere a posto i tombini, sono stati stanziati anzi complessivamente 10, e il risultato che si è visto che girano con le paverelle, con le barche dei poveri romani, e non voglio neanche immaginare i danni ai negozi, alle macchine, ai motorini. Il tutto con la straordinaria e sempre costante variabile che Marino non è a Roma ma è in qualche parte del mondo. Sì, nella fattispecie il sindaco era a Filadelfia a prendere una laurea honoris causa. Honoris causa, diciamo, all'assenza programmata. Ripetoso, ha un timing, infatti a Roma pare che ogni volta che parte... Vabbè, ma quella è anche sfortuna, Marchini. Ogni volta che si legge in partenza Marino ci sono, diciamo... gesta non esplicabili al pubblico non adulto per cercare di scongiurare che Martini. Senta, Martini, ma secondo lei che cosa bisogna fare? Mancano 6 mesi al giubileo, c'è chi guarda questo giubileo, particolarmente i romani, lo guarda con terrore, i romani e gli italiani, per il rischio, insomma, che non si faccia proprio una figura eccellente. Cosa bisogna fare? Diciamo, allora, la possibilità che non si faccia una figura eccellente è molto molto alta, nel senso, poi lei, oltre a quello ci sta la transazione del corpo di padre Pio, la beatificazione di madre Teresa, quindi diciamo, i romani avranno una pressione micidiale, per questo qua è drammatico. Magari le cose da fare sono poche, il vero problema è che un giubileo vero e proprio si programma con molto molto anticipo. Io ricordo quando nel 95 diede un supporto al primo Rutelli, e mi ricordo che malgrado avessimo molti anni davanti, una squadra straordinaria a disposizione, fondi, risorse, insomma, è stato fatto un lavoro enorme che è durato almeno 5 anni, ecco, riuscire a fare un'operazione in tanto poco tempo è molto difficile. Il Papa, che è un uomo intelligente, ha fatto capire chiaramente che il giubileo sarà sì un momento centrato su Roma, ma che sarà possibile, come dire, partecipare anche in altri punti in giro per il mondo. Quindi la pressione non sarà così intensa come fu allora. Ma secondo lei ci vuole un commissario per la gestione del giubileo? Secondo me ci vuole un commissario per la gestione di Roma. è ancora prima. Guardi, io veramente credo, attaccare Marino è quasi ormai uno sport nazionale, quindi non fa neanche più effetto, però effettivamente io credo che non sia un problema nazionale lasciare la capitale d'Italia in questo stato di assolutamente abbandono, allo sbando, dove tra problemi di mancata interazione con gli immigrati, campi rom, sicurezza che non c'è, prostituzione, strade che sono diventate una roba invivibile dal punto di vista di immondizia per le strade, 2 gocce d'acqua e c'è l'alluvione. Io non so che debba capitare ancora, per cui la maggioranza che sostiene questo sindaco capisca che sbagliare umano, perseverare è diabolico. Ma questo lo dico al di là proprio, diciamo, del mio interesse politico, di romano, cioè ormai è unanime questa posizione. Io credo che, secondo me, non è proprio tanto di Marino, una grande città come Roma nel 2015 non può più governare col modello che ha funzionato per 50 anni. Il modello di questi 50 anni era risorse illimitate e dare tutto a tutti. Oggi non è più possibile, quindi dobbiamo fare un'operazione diversa di decentramento delle funzioni, coinvolgendo i quartieri, delegando ai cittadini alcune funzioni e garantendo tutto su alcuni servizi. Sì. Sarebbe lunga, non abbiamo spazio, io la devo salutare, posto che sul tema del decentramento delle funzioni e dei servizi a Roma se ne parla ormai da un'eternità. Comunque la ringrazio, grazie ad Alfio Marchini per il suo intervento e per le sue opinioni. Noi ci fermiamo, c'è la borsa, poi ci ritroviamo subito dopo e parleremo con il sindaco di Catania. Perché? Perché oggi Frontex, che è la struttura europea che si occupa dell'immigrazione e dell'immigrazione, ha detto che il centro delle nuove operazioni sarà esattamente a Catania. Vogliamo capire come sarà strutturato e dove si troverà e come sarà organizzato. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Accenni di crescita, ma i germogli vanno protetti, dice il presidente di Confindustria Squinzi nel giorno dell'assemblea. Dice: c'è una manina antimpresa, qualcuno ci vede nemico. Auto pirata sui passanti, o meglio auto inseguita dalla polizia sui passanti, arrestata per omicidio volontario, una 17enne nella capitale, investita 9 persone, si alza lo scontro sui campi nomadi, 2 le persone ricercate. Putin interviene sugli arresti nella FIFA, colpiscono Blatter perché non vogliono i mondiali in Russia. È terminato con 45 condanne e 25 assoluzioni, notizia di poco fa a Torino il processo d'appello dell'inchiesta Minotauro sulla presenza dell''ndrangheta nel torinese. La borsa. Per lavoro o vacanze scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Notizia di politica e politica sportiva appena battuta dalle agenzie. Il premier britannico David Cameron, lo ha detto un portavoce di Downing Street, chiede le dimissioni del presidente della FIFA, Joseph Blatter. Noi siamo in linea adesso con Enzo Bianco, sindaco di Catania. Buongiorno sindaco e benvenuto. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. L'abbiamo chiamata perché abbiamo appreso oggi da Frontex, che è l'organismo europeo che si occupa di immigrazione, che la base operativa sarà a Catania. Ci spiega dove e come, sindaco? Guardi, è una mia vecchia richiesta. Qualcuno forse ricorderà che all'inizio del 2000 io ero ministro dell'Interno e affrontai un'emergenza sbarchi e mi convinsi dell'idea che per gestire questi problemi enormi e giganteschi ci voleva una polizia europea delle frontiere. Parlai con l'allora commissario Vitorino proprio a Catania e Vitorino si convinse, era portoghese, di questa necessità. Nacque da quella iniziativa l'idea di avere Frontex, solo che Frontex in questi anni secondo me non è stata adeguata alla missione che doveva affrontare. Frontex ha sede a Varsavia. Naturalmente Varsavia è una bellissima città, ma non è esattamente sul luogo in cui ci sono flussi di migranti. Io ho chiesto con tutta la mia forza da circa 2 anni che ci fosse una base operativa in Sicilia, sì, che è diventato il luogo naturalmente dove questa emergenza viene vissuta ogni giorno. Ieri Frontex ha deciso di aprire una sede operativa in Sicilia, ha scelto Catania per ragioni evidenti. Catania è dotata di un aeroporto con collegamenti internazionali buoni, ma è soprattutto la più grande città vicino al luogo in cui oggi avvengono gli sbarchi, sì, di decine di migliaia di persone al mese. Dove sarà collocato questo centro? Avete già una struttura? Nel comune, nel monastero di Santa Chiara, che è dove oggi sta l'anagrafe, la sto trasferendo l'anagrafe in un'altra moderna struttura, quindi nel centro della città, sarà pronta entro poche settimane, a fine luglio. Se vogliono cominciare subito c'è già una disponibilità di locali da parte della Questura di Catania, nel giro di qualche settimana siamo pronti e operativi per fare in modo che questa struttura sia realmente una struttura di conoscenza reale, che possa sentire la voce, le testimonianze delle migliaia di persone che arrivano e conoscere il fenomeno non come un servizio studi ma come una base operativa. E in questo luogo dovrebbe esserci anche la gestione, dovrebbe partire da questo luogo la gestione anche dei cosiddetti hotspot, ossia quei luoghi del paese che dovranno anche essere quelli da identificare, nei quali verranno portati i migranti per l'identificazione in sostanza. Sì, questo luogo è un luogo naturalmente in cui stanno le Frontex, in cui io spero che possa stare anche Europol, Interpol, cioè tutte le strutture, diciamo, della pubblica sicurezza che sovrintendono a questo argomento. Altra questione è quella di avere anche insieme con questo uno o più centri di prima accoglienza. Oggi noi abbiamo ospitato migliaia e migliaia di persone in palazzetti dello sport sottratti al uso da parte dei nostri ragazzi. L'abbiamo fatto con un sacrificio che è stato riconosciuto come molto generoso, l'abbiamo fatto spesso con le risorse della mia comunità. Sì. Pensi che l'anno scorso soltanto a Catania c'erano 800 minori non accompagnati che come cittadini catanesi abbiamo ospitato nella nostra città. E lei dice, insomma, ci vuole una struttura di diverso tipo. No, dico, ci vuole una struttura di diverso tipo, dice lei. Insomma, sì, ci vuole una struttura adeguata, ci sono delle caserme che sono state non utilizzate nella realtà della Sicilia orientale e in quella della Sicilia meridionale, che possono essere utilizzate a questo scopo, e poi credo che ci vogliono delle strutture specializzate, in particolare per i minori, perché ci sono appetiti anche di criminalità organizzate che rispetto a questi ragazzi che arrivano su barconi possono pensare di trasformarli poi in qualcosa di diverso. E quindi un controllo più serrato. La ringrazio, grazie a Enzo Bianco, sindaco di Catania, buona giornata e buon lavoro. Traffico.